false partenze prima di cominciare, ma ora ci siamo. E con me stasera ci sono i soliti ospiti Jacopo, Andrea e Roberta. Salve. Ciao. E questo è l'episodio che non ricordo, di cui non ricordo il numero. Tutte le volte. Figuraccia. Ed è il 27. E yeah. Non abbiamo ancora deciso il titolo. Voi l'avrete già visto, per me sarà una sorpresa e sarà un episodio monografico, perché mi hanno chiesto in tante persone, non è vero, me l'hanno chiesto solo Roberta e Jacopo, su Guglielmino del Toro. Allora, prima, io non volevo fare questo episodio perché ho solo una roba da dire su Del Toro, ma poi ve lo dico anche dopo. Allora, intanto Del Toro è un regista, sceneggiatore, produttore, scrittore del 64 messicano. E inconfondibile, perché ha fatto un po' di film, ha fatto e prodotto e sceneggiato alcuni film che sono, tra virgolette, iconici, cult. E che tutti almeno una volta nella vita hanno sentito o visto. E io non ho una sega da dire, davvero. Ah no, la prima cosa che voglio dire è: in settimana mi sono arrivati dei messaggi da persone che hanno ascoltato i vecchi episodi, che mi dicevano: ma c'è uno in sottofondo che mangia merendine. Ma che cos'è questo rumore in sottofondo? Ma chi è che scarta le cose in sottofondo? Ah, io, ma e tra l'altro non sono messi d'accordo queste persone, cioè indipendentemente mi hanno scritto sta roba. Allora Andrea, vuoi spiegarci che cosa succede in sottofondo? E niente, Andrea se n'è andato. Allora, visto che avrete sicuramente già sentito l'episodio su The Prestige, e nell'episodio diciamo appunto che Andrea ha un po' di problemi mentali, come tutti noi tra l'altro, però sono specifici i suoi, e ha un tic nervoso per cui rimescola le carte mentre vive. mentre... Che praticamente lui è bravissimo, per cui mentre fa tutte le cose della sua vita ha in una mano le cose che fa e nell'altra rimescola le carte, rimischia un mazzo di carte, e però si sente questa cosa, cioè voi ve lo immaginate tipo Andrea che cucina con una mano e con l'altra mischia, è così, fa un po' impressione se lo guardi dal vivo, però che cazzo vi devo dire, in audio si sente solo il miscolio, quindi fa solo impressione in un altro modo, e niente, è quello, e vabbè. E basta, torniamo a Del Toro, questo non c'entrava una sega, ma così la gente smette di dirmi perché sento merendine, ciccioni, adesso che sono passate ste cagate qua, no. Allora, parlavamo di Del Toro, che ha una carriera, allora lui non ha, è stato regista di non troppi film, cioè non è un numero mostruoso di film, abbiamo parlato di registi molto più, tra virgolette, prolifici, però sono appunto, come dicevo, film, tra virgolette, iconici, per cui film che sono molto... Alcuni, per esempio, sono diventati cult, tipo Il labirinto del fauno è il... come cazzo si dice? È uno del... è quasi uno stereotipo dei film fantasy, perché alla fine dal 2006 è diventato un po' un riferimento per il fantasy. Un po' tipo Willow. Che? Willow, quello del nano Willow. Che diventa, vabbè, sono quei film un po', vabbè, cult. E lo stesso per i più recenti, anche Crimson Peak, La forma dell'acqua, comunque vabbè, La forma dell'acqua poi ha vinto anche una bandiera di premi. E niente, vabbè, adesso lascerò parlare gli altri, perché io ho solo una roba da dire che dico dopo. E l'unica cosa che Andrea mi ha suggerito è che c'è un film che noi non abbiamo visto, magari Jacopo e Roberta l'hanno visto a sorpresa, ed è quello che è uscito quest'anno, che si chiama Scary Stories to Tell in the Dark. Io ancora no. Che Andrea non è, cioè, non è, lui non fa non è suo, però, cioè, solo prodotto. Lui è sceneggiatore, però. È di una sola storia, però. Vabbè, fanculo. Sì. Cioè, vabbè, ci arriviamo. E tra l'altro il regista è una nostra vecchia conoscenza, quindi potrebbe valer la pena di fare un episodio anche su quello. Vabbè, pensateci, intanto la butto lì e poi ditemi voi. Basta, lascio parlare voi perché... Cazzo, allora lo guardo, quello di Autopsy. Bravo. Ok, scusa. Lascio sì. parlare voi perché ho già detto troppo e niente, ciao, ci vediamo dopo. No, in realtà, Salla, c'è un'altra cosa che ti costringerò a commentare dopo, ma... Sappiamo entrambi cos'è. Allora. per citare un'esperta di cinema, è un ciccione con, ma con gli occhi azzurri. Diciamo che è un... Io non ho detto esattamente aulica, proprio. Esatto. Io però ho detto anche che è famoso perché è un ciccione messicano. È vero. Partiamo dalla fine. Famoso perché gli hanno rapito il padre, gli hanno chiesto soldi e il riscatto l'ha pagato James Cameron. Quindi diciamo che è un raccomandato di merda. Eh? Non lo sapevo. No, vabbè, non c'entra un cazzo. Per me è uno sceneggiatore di merda. Cioè, le storie che fa sono... tra il banale e un po' lo strano. Merda, ma stasera tu devi dire l'opposto di quello che dico io. Cioè, già per il prossimo episodio che uscirà la prossima settimana siamo partiti malissimo, perché ho già sentito che cazzo hai da dire, quindi... Poi questo... No, allora no, non è vero. In realtà tutte le storie che racconta... Però. No, vabbè, ci sarei arrivato lo stesso. Tutte le storie che racconta hanno qualche elemento, qualche dettaglio, qualche elemento interessante, ma non sono, che ne so, il sesso o Shining, o, cioè, non cambiano il mondo, diciamo, le sue sceneggiature, però... Però Shining è un libro. Hai ragione. Però non è uguale al libro, infatti Stephen King l'ha odiato perché è un film fatto bene, e lui piacciono solo quelli di merda. Però... no, che dire, cioè in generale questo per me è un bravissimo regista più che un bravissimo sceneggiatore. Non gli hanno dato abbastanza soldi, anche per Pacific Rim dovevano dare nel doppio secondo me. Cioè, ecco, questo qui diciamo in generale. Poi vabbè, magari in particolare possiamo parlare un po' di qualche film più... No, aspetta, allora dico subito la cosa che dovevo dire, così poi sto zitto. Per me è esattamente l'opposto. Ok. Nel senso che per me lui è bravissimo, ma non tanto a inventare le storie, non me ne frega niente. Lui è bravissimo a scrivere la lore. Sono d'accordo, sì. Cioè, quando sì, lui sì, fa sì. una roba tipo Pacific Rim, lui non solo ti fa il film, che poi è una merda, ma per altri... non so se è solo per colpa sua o vabbè, cioè l'idea è molto buona, cioè okay, hai citato sì. tutti perché comunque sono robottoni che si picchiano, come non puoi non citarti, però fondamentalmente. E però la lore che sta dietro, anche se comunque è una storia trita e ritrita perché prende spunto da un sacco di roba di kaiju che esiste già, è veramente curata. Cioè ha curato ogni singolo personaggio, è un po' come quando uno guarda... No vabbè, è... Adesso non voglio dire Tolkien, però di fatto lui scrive l'ambientazione in modo molto dettagliato, ma per qualsiasi cosa, anche un film di merda come può essere il Boy 2, che è brutto. No, è vero. Però la storia che c'è dietro, lui l'ha scritta, cioè lui ha scritto la storia di tutti i personaggi, poi non la fa vedere, però lo sai che c'è, lo sai che c'è. Sì, sì, c'è tutta la parte degli elfi, sì, sì. Esatto, sì. E lo stesso, la cosa che mi piace di più, cioè il suo prodotto che mi piace di più, anche se è solo una serie animata, è Trollhunters, che tanto Jacopo poi me lo avrebbe nominato, quindi... Esatto, bravo. E anche quello è una mezza minchiata, perché è la solita storiella, però la lore che c'è dietro e l'ambientazione appunto che c'è dietro è veramente tanta roba, cioè è come se lui fosse davvero un master di GDR coi controcoglioni. Poi l'avventura che fanno i suoi eroi magari è banale, però tutto il mondo è bellissimo, basta. È vero, anche Hellboy 2 c'ha un po' gli stessi elementi. Sì, cioè è bravissimo, come hai detto tu, a creare dei mondi e a mettere magari dei personaggi normali, cioè non troppo originali, in situazioni interessanti. Però, ripeto, cioè per me l'attrattiva non è la storia in sé del film, come hai detto tu, ma sia il mondo sia come lo racconta. Mi piace come lo gira, mi piace tutti i dettagli, cioè sono i dettagli che fanno la differenza secondo me fra un Pacific Rim e un Pacific Rim Uprising, cioè i dettagli della... cioè, Ho capito. tu hai detto, è un film di robottoni che si picchiano e quindi non, come fai a non eccitarti? A me Pacific Rim Uprising ha fatto schifo, però Pacific Rim mi è piaciuto e sono due film con i robottoni che si picchiano, cioè è come li gira, è come li fa pesare, è come de cioè, è decidere... Diciamo la città come è fatta, il meteo, l'ora del giorno, far vedere come vengono montati questi robot, come il fatto che vengono pilotati con queste imbracature pesanti che danno un sacco di peso, cioè non solamente perché è grosso e quindi è lento, ma anche perché è difficile da muovere con le imbracature. Cioè, non lo so, sinceramente tutte quelle cose mi, diciamo... mi fanno dimenticare che poi la storia sia banale, che i personaggi siano, cioè, di merda, che Idris Elba venga malamente ucciso, spoiler, alla fine. Però, cioè... Esatto, Hai nominato Idris Elba, bisogna nominarlo Nicolas Cage adesso. per la regola del salotto. Però vabbè, questo è il mio... cioè, in generale, come posso dire, la mia impressione Che di Del Toro. se posso dire, questa volta mi trovo concorde anch'io appieno, nel senso che per me Del Toro è il regista dello sfondo, cioè è bello lo sfondo, è il mondo nel quale ti conduce, che è bello, cioè oggettivamente cura il dettaglio. E poi c'è l'amore per l'animale, non so se l'avete notato, soprattutto mi riferisco al Labirinto del Fauno, anche Crimson Peak, Vabbè, cioè Shape proprio of Water, tutto. no, diciamoli Scusate. tutti. Il dettaglio animale, Comunque, come quando hai detto che è il regista dello sfondo, mi immaginavo un'altra battuta del fatto che fosse grasso. Ormai per me Hai detto tu, sei eh? contro Grazie, Jacopo. Cioè, non conta la storia del toro, non conta cosa dicono i personaggi, anche perché alcune storie fanno abbastanza cagare, francamente, per quanto mi riguarda. E non è neanche il mio genere, se proprio devo essere franca. Però il mondo nel Madonna. quale lui ti No, sì, conduce è Roberto. meraviglioso. Cioè, ti sembra proprio di toccare quegli alberi, ti sembra di toccare quelle farfalle, di vederle, di percepirle, ha un effetto anche un po' straniante, cioè io mi estraneo molto quando vedo i suoi film e ho questo godimento di 2 ore, perché sono film lunghissimi, in cui sono assorbita completamente dalla storia, la storia in sé, per il mondo nel quale egli mi conduce. Riesce proprio ad abbracciarmi in qualche modo, cioè io mi sento in quel mondo fiabesco, pseudotale. Un po' anche a metà, cioè gioca molto tra il fantastico e cosa è fantastico e cosa è reale, no? Lo imbrica in maniera da non farti più capire cosa sia l'uno e cosa sia l'altro. Siamo anche qui. Ma voi avete visto La forma dell'acqua? Sì, io l'ho visto oggi. Allora parlatemi un po' di quello che è il film super premiato e tutto. Vabbè, che gli è andato perché è messicano, Comunque, però. era più un Oscar alla carriera, tipo Tarantino. Ma a me non ha fatto impazzire comunque. Forse, boh, non so. Troppe Perché? aspettative. Aspetta, prima che rispondi, Andrea, Roberta, mi hai fatto perdere la scommessa, mi aspettavo che dicessi tipo barocco o gotico nel tuo commento a Del Toro. Quindi ora niente, Ah, devo... barocco nel gotico nel senso che è brutto. c'è del gotico, barocco non direi, per me non è barocco. Ah beh, potevi dire che non è barocco, però non l'hai detto. Comunque, Andrea, scusa, vai. Con chi hai No, dicevo scommesso che non mi ha stavolta? fatto Sono fuori impazzire, forma? ma... Chi è che ha vinto la scommessa? No, era una scommessa contro me stesso, quindi Ah, devo dirci contro me ok. stesso. No, ero curioso, tranquillo. ma perché... Dicevo perché... forse perché non so, cioè, le aspettative troppo alte, magari per i premi che ha avuto, la gente che diceva che era che il film era bellissimo, eccetera. Mi aspettavo qualcosa in più, forse. Non mi hai detto tanto. Ma tu sì, dici, cioè, la storia o proprio il film e basta? Cioè, tutto... No, in generale. A me quel film ha lasciato tanto di colore, di... come posso dire, di atmosfera, di musiche, così, di storia... Ripeto, giusto qualche dettaglio, tipo lei che si masturba all'inizio, il fatto del, diciamo, l'attenzione... che ha nel girare il cattivo, cioè come dimostra, insomma, l'ossessione, la schifezza, insomma, di sto cattivo, di sto uomo di militare, insomma, americano, non so, è molto... mi ha lasciato qualcosa che va oltre, insomma, la storia che racconta, per quello mi è piaciuto tanto, mi è rimasto impresso, però sì, cioè... Mi ricordo, Jacopo, facevamo questa discussione qualche mese fa, forse dopo che io lo vidi, perché lo vidi a giugno. Forse sì, esatto. Ricordo, e io rimasi anche molto delusa come Andrea, ma perché mi aspettavo veramente un super masterpiece di quelli in virtù dei premi che ha ricevuto, avevo un'aspettativa altissima. I premi, l'Oscar non conta un cazzo. Ha preso due Oscar. Nel senso che... ho trovato una storia comunque inconsistente, nel senso di quelle storie che a me, per come sono fatta io, per come mi approccio al cinema, non mi danno soddisfazione, ma va bene, cioè è del Toro e quindi lo so, però mi aspettavo un contorno all'ennesima potenza, cosa che onestamente non ho trovato, cioè da quel punto di vista apprezzo molto di più Il labirinto del fauno, onestamente. Poi concorde con Jacopo, in realtà, e io non c'ero arrivata lì per lì, cioè non l'ho notato subito, però parlando con te in quell'occasione e poi dopo a posteriori mi sono detta sì, hai ragione, è vero che ha dei dettagli interessanti, soprattutto la figura della protagonista, cioè ci sono tante cose che questo film ha portato all'attenzione internazionale e all'attenzione degli americani che non sono così scontate, che non sono così, cioè che qualche anno fa veramente sarebbero state d'avanguardia quasi. E per me, cioè, il fatto di usare dei cavi per le scene sott'acqua, cioè tutte quante le scelte, insomma, fatte per la creatura, per gli effetti speciali in generale, a me piacciono, cioè, queste cose mi ci rigiro, tipo i porci nel fango. Quindi sì, cioè a me è rimasto molto impresso, ma ammetto che la storia non è molto, diciamo, ricca e originale, mettiamola così. Sì, sai cosa? Io sono delusa perché mi aspettavo l'upgrade del Toro con The Shape of Water, in quel senso, cioè mi aspettavo un film con questo solito sfondo meraviglioso in cui lui ti conduce e lo sa fare, però al contempo una sostanza, una storia di un certo tipo, che non c'è. Oddio, c'è un portato psicologico, se vuoi, sì, sicuramente forse più che in altri film, però rimane una storia per me, cioè abbastanza inconsistente, però capisco che è un mio problema, nel senso che io mi approccio ai film in un certo modo, quindi... Ma vabbè, a me non è piaciuto Green Book, quindi... Cane. Ognuno c'ha... Che brutta. No, non è vero, mi è piaciuto, ma non così tanto. Non ti è piaciuto? No, vabbè, mi è piaciuto, ma non come Salla o Sara o persone che iniziano con S. Per lo stesso motivo. Cioè, anche quel... Vabbè, ora non apriamo la digressione. Comunque, ha degli elementi di genialità che dico, cazzo, che cavolavoro. Cioè... No, intanto cazzo non lo puoi dire tu. Semmai prepuzio. Sì, esatto. Ma bene. Vogliamo un attimo fare un intermezzo? A quanto pare Del Toro è uno dei quattro sceneggiatori di The Hobbit, dei tre film di The Hobbit. È quello che dicevo prima. Purtroppo sì. È per quello che ho detto l'Hobbit. E allora mi odio Del Toro. Cioè, ma in realtà pensi, è la scelta più logica, perché avevamo bisogno di uno che allungasse la broda, e lui in effetti lo sa. Lui è esperto a fare il chill. La lungaggine del film, e io sono una che ama i film lunghi, però oggettivamente non c'è un film che stia sotto le due ore. Madonna, The Hobbit. Vabbè, cioè, devo allungare la broda aggiungendo roba, alla fine la roba che è aggiunta è coerente al film, quindi è brutto, ma ci sta. Cioè, lui ha fatto il suo lavoro, non è che... Vabbè, certo, avranno fatto pure più soldi con quello che con Pacific Rim. Professionale. Però ha un suo, cioè, secondo me Del Toro overall, cioè, tutto quello che abbiamo detto è che lui ha una sua firma dell'insieme di Fiabesco, e Fiabesco però reale al contempo in cui riesce a condurti il romanzo. È vero. In realtà, secondo me, lui risente molto dell'influenza proprio del realismo magico di dell'Allende, di Marquez, cioè credo ci sia anche un po' di veramente influenza letteraria. Non mi sono informata se la critica dice qualcosa a tal proposito, però onestamente mi sento di poter dire che c'è lo zampino, non lo so, di quelle realtà. Sinceramente non lo so. Io so che quando era piccolo ha visto Il mostro della laguna, come cazzo si chiama, e ne è rimasto incantato e ha sempre amato i mostri, ma quello è la prima cosa che vedi praticamente, è proprio là. A proposito, quindi voi che avete visto di Del Toro, vabbè, Shape of Water, ok? No. ok, Kronos, qualcuno l'ha visto? Io no. No, io ho visto Pacific Rim, Hellboy, Crimson Peak, questi 5. Ok, quindi mi sono visto Kronos. Avrei voluto vedere Kronos, onestamente. E l'Espinato del Diablo? Io sì. Primo, uno dei L'hai primi. Visto, Andrea? Mm-hmm. Che ne hai pensato? L'ho visto un sacco di tempo fa, in realtà. Però non sapevo manco che era di Del Toro, l'ho scoperto dopo. Ma è quello lì del coso... dell'orfanotrofio durante la guerra civile spagnola. Esatto. Girato, sì. Ma no, quello mi è piaciuto in realtà. Non ti è piaciuto? No, mi è piaciuto. Ah, io non me lo ricordo. Che ci stava tipo un fantasma? Che come cazzo sì. Era la storia? Sì. Fantasma di un bambino lì ucciso nell'orfanotrofio. Vabbè. Sembra tipo una specie di prototipo di Labirinto del Fauno. Cioè una specie di... Ti stavo dicendo, ritorna anche lo stesso tema in realtà, no? Sì, c'era una guerra. Esatto, una cosa importante spagnola sullo sfondo, mentre davanti ci sta una storia semifantastica, quasi surreale. E... anche qua il suo marchio. Cioè quello di... Però diciamo, Blade 2... Vabbè. È un po' copiato però. Cosa un po' copiato? Questa storia del fantasy come rifugio dalla guerra. Sì, Lewis Narnia l'ha scritto prima. Sì, ma quello è un cattolico di merda. Però è la stessa cosa. Cioè, il fantasy, il rifugio insomma, dalla vita reale con la guerra e tutti i problemi. Vabbè, niente, non volevo fare il saputello, però... Cioè, non so, Salla, cioè, caccia Roberta e fallo tu, cioè, che ti devo dire? Abbastanza battuto, però in lui ritorna in più, cioè, non in tutti, perché poi cambia anche scenario, però questo discorso della guerra civile spagnola è dentro, ecco, è un... Ma... Nessuno di voi ha visto Mimic, quindi? Certo che l'ho visto Mimic. Andrea, grazie. Ma anche questo, tipo, quando avevo 15 anni ho visto Mimic. E spero che ti abbia fatto cagare, come a me. Ma in realtà... Non ci credo. Cioè, a quel tempo... Cioè, poteva piacermi, insomma. infatti l'ho rivista più di una volta, però, però... no, vabbè. Vabbè, la parte diciamo di del mostro e là sotto è figa, però madonna mia, insetti giganti, eh. Insetti giganti. Mimic, tra l'altro, è stato un momento di, secondo me, cioè, come posso dire, in italiano, definitivo, no, cioè, un momento che ha definito l'odio di Del Toro per i produttori, perché gli hanno imposto un finale che non voleva, un montaggio che non voleva, e alla fine, tipo, il film ha fatto un botto assurdo. È per quello che è diventato produttore. Esatto, mi sa che una persona ha detto basta, mi produco da solo. Ma tra l'altro, cazzo, è vero, perché poi ha fatto David Backbone, che ha fatto il produttore, Blade 2, che l'ha fatto per i soldi, e poi tipo dopo il Boy... Anche il Boy l'ha fatto per... No, vabbè, il Boy forse è un po' più alla... Del Toro come idea. Sì, c'è un po' più di lui. Blade 2 è regista? Sì, Blade 2 è regista. Blade 2 è bellissimo, Blade 2 è fantastico. Miglior cinefumetto della storia. Oddio. Che figo. E quindi, non lo so, cioè, di film interessanti, davvero interessanti, forse più, cioè, il più bello che ho fatto è Il labirinto del fauno, effettivamente. Sì, anche perché appunto è un cult fantasy. Sì. Però, cioè, ripeto, non c'è molto da aggiungere, forse, a parte il design. Il design del tizio. Io voci molto positive su Crimson Peak. Io ho provato anche un po' a ragionarci su, soprattutto su questi ultimi due, però, bah, magari sono corta io, però non... Male, ecco, anche come messaggio, sì, la guerra, le atrocità... No, vabbè, mica perché devi parlarne, cioè, secondo me sono film di Del Toro quelli che vanno visti. Crimson Peak tu l'hai visto, Andrea? Dicevi... No, non l'ho ancora visto, questo non l'ho visto, no. Però mi hanno detto che è bello. Sì, vero? Non so. Visto. Ah, io te lo consiglio, Andrea. Cioè, anche quello non è un film che c'ha granché di storia, però anche quello, cioè, ancora adesso mi ricordo quasi ogni scena, i colori, le inquadrature della casa... Cioè, è più che altro perché, cioè, a me c'è Tom Hiddleston che fa impazzire, quindi penso che... Aspetta, che altro ci sta oltre Hiddleston? Chastain, non indifferente, tra l'altro. Sì, e Mia Wilkinson qua. È quella di Alice, tra l'altro. Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi possiamo collegare... No, oh, le attrici sono molto brave, devo dire una buona... Sì. Una bella interpretazione, però per dire su Crimson Peak le scene finali io avevo un moto di, cioè, davvero troppo splatter, un eccesso di splatter inutile, quando loro due si cercano di ammazzarsi, la Mia e Jessica Chastain, cioè... Più o meno, sì, vabbè. Ho capito il senso di questo finale super splatter alla luce di un film anche discretamente bello fino a quel momento, in termini visivi, uditivi. No, vedi, non ci siamo, cioè non ci siamo. È bello perché è splatter, Roberta, cioè proprio... Cioè, come dire, non vedo il motivo per cui il robot deve prendere una barca e picchiarci il mostro, cioè è l'unico motivo per cui è bello Pacific Rim, cioè... Beh, non è l'unico, ma è uno dei motivi per cui è... È un amore, cioè, no. Perché, però, diciamo, convieni con me che quei 10 minuti finali, anche 15 minuti, per me sono veramente inutili, cioè rovinano il film. No, mettono un bel finale, mettono un bel, come posso dire, no, ma perché poi desublimano tutto il resto, cioè desublimano un film in cui, ok, non hai sta gran trama, anche se comunque è una storia fantastica carina, cioè a me è piaciuta, in cui hai entri in queste case. La prima bellissima con tutti i specchi, la seconda diroccata, mostruosa, e poi il tutto finisce con due che si accoltellano con un'ascia da macellaio. Ma quanto è splatter, cioè... da zero a Rodriguez? Rodriguez meno uno, diciamo, la finale. Ah, vabbè. Comunque, beh, no, se dici di sublimare, già sei fuori, hai perso la discussione, cioè non ci siamo. Sì, esatto. No, cioè, per me è un modo quasi, catartico, non è completamente scollegato secondo me dal film, perché comunque c'ha delle scene in cui non è che senti solamente quest'ansia, questa angoscia, questo sublime gotico del cazzo, cioè senti anche comunque la mano più da B-movie quasi di Del Toro, con i mostri, con quel coso bellissimo, come si chiama? Il Wright, la donna, quella fantasma, col bambino, quella è fatto benissimo, cazzo, quel mostro penso sia uno dei più belli della storia del cinema. Ok, è proprio veramente il desublimare con il splatter finale, con Banshee, questo grazie. Non ho visto il film, però non so se rosso ketchup, che siamo veramente a livelli di Rodriguez, che vabbè, sapete qual è il mio gizio su Rodriguez, quindi rosso pomodoro, che è un figo, però che è veramente un figo con tutto ciò che c'è stato prima. Cioè io l'ultimo quarto d'ora dico, stavo lì e dicevo adesso lo spengo, cioè mi ricordo benissimo questa cosa, ma non perché mi faccia schifo, ma perché dico, ma perché devi allungarla? O meglio, io ho chiuso il finale in altro modo, non allungandolo. Sarà stato abituato da The Hobbit. No, beh, lui allunga. Sì, cioè davvero c'è questo quarto d'ora di queste due donne che cercano di ammazzarsi e nel frattempo accoltellano i loro rispettivi uomini in vario modo e basta, cioè, però ripeto, questo è anche il mio gusto. Dai, non spoileratelo, che Andrea vuole andare a vedere. Non è male, per me rimane comunque un discreto film, eh? Poi una buona interpretazione, ripeto. A me, boh, Del Toro piace loro per queste cose stupide, cioè io avevo visto il Boy 1 e 2, ho visto il Boy 2, ma... E anche forse Labirinto del Fauno, ma mi sono davvero innamorato quando stavo a metà film, al cinema, a guardare Pacific Rim, e c'è stato questo momento in cui c'era questa scena di pioggia, tutto in notturna, con le luci della città... Per dire, in cui non vedevo niente. In cui non vedevo un cazzo. No, in cui, stranamente, la geografia della scena era chiara, cioè io sapevo dove erano tutti, diciamo, i personaggi importanti in relazione all'altro, e... Finalmente vedi sto colosso di boh, 50 piani che salta, cioè proprio con tutto il suo peso salta con un razzo sulle spalle che sembra proprio tipo Power Rangers e dà un pugno proprio... Citeremo al prossimo montaggio. Citeremo, esatto. E dà un pugno in faccia a un mostro, cioè... Gli ho detto, no, ok, devo andarmi a rivedere tutti i film che in realtà poi non c'entravano un cazzo con Pacific Rim, però... Mi sono piaciuto lo stesso. E poi Trollhunters, tra l'altro. Trollhunters, Del Toro, che bisognerebbe guardare in realtà. Esatto, Del Toro, come dici tu, è bravo a fare i mondi. E oltre a The Strain, che invito magari a vedervi o barra a leggervi, anche se è un po' una serie TV brutta, anche quello in realtà, cioè, è un... Come? Che bella presentazione. Cioè, non voglio illudervi che sia che sia una bella cosa, però è fatta benissimo quella serie perché parte da un posto molto realistico, cioè parte da una lore dei vampiri molto improntata sulla biologia, che è una cosa che mi piaceva molto anche di Blade 2, per poi arrivare a posti molto più, diciamo, da quasi da film Marvel, cioè la backstory con i nazisti, cioè collegamenti un po' fantastici, personaggi un po' di merda, i bambini che vorresti ammazzare, tutte queste cose molto, molto Marvel. Però finisce bene, nel senso che muoiono tutti. Finisce. Ok. Cos'è questo, scusa? The Strain. Una serie TV basata su un libro del Toro. Una serie di libri mi del sa Toro, che l'abbiamo già nominato un episodio sui vampiri. E Trollhunters, che invece è una serie, un cartone animato su Netflix. Sì, Trollhunters è un fantasy, tipo un heroic fantasy, un sword and sorcery. Praticamente è il solito fantasy eroico in cui però il protagonista è un adolescente ed è il target è palesemente un target di adolescenti. Però è bello, cioè, sì. L'ho guardato adesso che non sono più adolescente. Forse nel cervello sì, però non lo so. E, cioè adesso inteso, vabbè, quando è uscito, tipo 2 anni fa, l'anno scorso, non mi ricordo, la seconda stagione. Sono solo 2 stagioni, e quindi in realtà è una storia conclusa. E 2,5, chi ha, dai. che ha deciso lui di fare così, quindi in realtà un capo e una coda non è che te la lasciano a metà e ti fanno delle cazzate, ma è bello, è carino, perché è una bella storia, gira bene e l'ambientazione è bella, come al solito Del Toro mi piace per quello, è un bel fantasy. Secondo me è anche bello perché, cioè, come mi dicevi tu quando ne abbiamo parlato la prima volta, i personaggi evolvono, non restano, diciamo, statici, e i problemi che incontra il protagonista sono, diciamo, realistici. Cioè, non è che, come hanno fatto un pochino, ci hanno provato, non è che siccome c'ha i superpoteri, vabbè, quello che è, improvvisamente, cioè, i problemi che c'ha sono super, cioè ha i problemi super e i problemi da adolescente. Sì, è un po' un teen fantasy riuscito, cioè non so come dire, nel senso, esatto, che è coerente e ha un senso, non è la solita minchiata tipo ah no, devo andare alla festa di fine anno, però anche queste invasioni di troll, come posso fare? No, non è così. È un pelino più elevata, cioè un pelino più ragionata, e no, è bella, se potete recuperatevela, perché appunto è su Netflix, se c'è ancora, non so se c'è ancora, penso di sì, e non è lunga, alla fine sono episodi da 20 minuti, e se non, cioè io poi, o magari uno vede la serie animata e dice ah, questo è un prodotto per bambini, non lo guardo, però cioè, secondo me merita parecchio. Se potete, recuperatevelo. Il prodotto per bambini è lo spin-off, quello sui tizi alieni. Non l'ho visto. L'ultima stagione. Ah, ho capito. No, quello è veramente bello. Ma poi, è questa qua che ha fatto anche lui, però. Sì, l'ha prodotta, però non l'ha okay. Scritta. Tra l'altro, per chi non so, un fan di Star Trek o comunque lo conosce magari altri film tipo, mi sa, The Green Room, penso, il tizio che ha doppiato il protagonista, Jim, è Anton Yelchin. Padron Jim. Anton Yelchin è quello che faceva... Oddio, non mi ricordo il nome. Vabbè, uno del nuovo film di Star Trek. Uno dei film o della serie? I film, scusami. Dei film. E il russo. Non mi ricordo il nome, scusate, non sono uno strafan di Star Trek ancora. E purtroppo è morto durante... Cioè, sì, quando ancora... Come? Chekhov. Il... Chekhov è il personaggio, grazie. Sì, Chekhov. Purtroppo l'attore è morto durante, diciamo, la registrazione delle ultime puntate, cioè la seconda metà della seconda stagione, che poi è diventata la terza. Per fortuna, diciamo, nella storia un po' è giustificato che cambia voce, ma comunque, cioè, vabbè, niente, è una curiosità. Del Toro ci è rimasto di merda, gli ha dedicato la serie alla fine. No. Poverino. Non aveva finito anche di girare Star Trek l'ultimo, mi sa, eh? No. Ah, no? No, non credo. Vorrei triggerare Jacopo, e quindi adesso aspettiamo Del Toro nell'ultima opera di Kojima? Salla, porco. Allora. Lo sai che poi inizio a parlare per 50 ore su quello che penso che significhi? Baby. No, allora, Del Toro ha una sfiga allucinante, nel senso che ogni volta che ha provato a fare un gioco era potenzialmente una cosa stratosferica, cioè una cosa veramente rivoluzionaria, e poi l'hanno cancellato. Tipo, ha provato a fare un gioco che tipo si chiamava Insanity? No, ha fatto Silent Hills, che poi non l'ha fatto. Ma prima ce ne stava un altro, Insane, eccolo. Cioè ha provato a fare questo gioco che si chiamava Insane, con delle premesse assurde. Cioè, ha fallito la compagnia. Cioè, la compagnia che questo non lo sta facendo, però. Questo è solo attore. Quest'ultimo no. Poi ho provato a fare Silent Hills con Kojima. Sempre, sì. Che, esatto, che chi non lo sapesse, Kojima è tipo il... diciamo, l'autore più autoriale dei videogiochi. Il papà di Metal Gear Solid. Esatto, quello che se la tira di più dei videogiochi è quello che mette il suo nome ovunque, quindi diciamo, è uno dei pochi veri registi, diciamo, nell'ambito dei videogiochi, ed è un fottuto matto. Sì, lui in realtà è un regista più... cioè, alla fine, lui no, lui produce videogiochi, ma alla fine quello che fa è quasi un regista. Dici Kojima? Sì, Kojima. Sì, cioè, è veramente un matto feroce, cioè... non voglio entrarci troppo nei dettagli, cioè, vi dico solo che questo qui è un tizio che nel 2003... no, 2004 ha fatto uscire un gioco dove si parlava di tipo di entità virtuale, di meme, di persone che potevano controllare quello che pensavi manipolando internet. Cioè, quando ancora internet, boh, era... che cazzo ci stava nel 2003 su internet? Niente, mule per scaricare i top, per scaricare sì. i film. C'era meta. Cioè... no, forse neanche, c'era Ragnarok. Game. Ragnarok. I giochi sui forum. Esatto. C'era veramente un pazzo scherato. E aveva fatto sto Silent Hills, che era una specie di reboot della serie di videogiochi, molto quasi avanguardista, sotto alcuni punti di vista, quando è uscito. Molto, ti cacavi molto in mano a giocare quel gioco. E mo' ha fatto Death Stranding, che anche qui, cioè... non ci si capisce un cazzo, è una roba molto assurda, e uno dei personaggi è, diciamo, visivamente è Del Toro, che gli è rimasto molto amico. Devi dirne un altro perché è nelle regole di questo podcast devi nominarlo. Ah, Mads Mikkelsen è un altro... comunque c'è sta cosa, Kojima che si fa amici tutti quanti più fighi, se si è fatto amico... Sì. Mads Mikkelsen. Io non ho ancora capito però se lui parla inglese o no, Kojima, onestamente. Lo capisce ma non lo parla perché lo parla di merda. Ah, ok. Cioè, perché è giapponese. Che è giapponese. Però è un nerd assurdo. Mads Mikkelsen, come si chiama? Quello che fa The Walking Dead. Quello che fa Daryl, vabbè, non lo so. Quello là. No, Norman Reedus. Poi, il regista di Drive... e di altri film assurdi, Nicholas Winding Refn, o come cazzo si chiama, poi se, ecco, Del Toro, la tizia di La Donna Bioni, come si chiama, la donna, vabbè, un film, una serie TV vecchia, conosce tutti, cioè questo è proprio un... alla fine siamo tutti un po' nerd. Alla fine siamo tutti un po' nerd, e lui, insomma, lui ha fatto, per i videogiochi, per il mondo dei videogiochi ha fatto comunque tanto. Quindi... sì, sì, cioè se lo merita un po' di autofanservice, diciamo. Esatto, poi è un po' appunto un rompicazzo. Tipo, io ovviamente ignoravo l'esistenza, stavo vedendo, ha troppo la faccia da uno che fa videogiochi. Kojima? È come tutti i giapponesi, oh. Tutti uguali. Cazzo, ma quello c'è... non mi diventare come Kojima, ti prego. Kojima, cioè, questo... è un figo, c'ha 56 anni e pare che ce n'ha 40, cioè è un nostro figo. Come fa a diventare così, Jacopo? Cioè, non è possibile, è completamente diverso. È abbastanza difficile, cioè, sì. Lo vedo più su... basta che non ti metti quell'occhialetto, Ia, cioè, già mai. Ma è gli occhi figo, sotto Kojima. Non li può fare, però. Sta roba... mi dissocio. Ma io non dico nell'essenza, dico nella forma, cioè sto occhialetto quadrangolare da pseudo intellettualoide, no, cioè... Ma lui è intellettuale in realtà, Kojima, cioè uno veramente coi controcoglioni, però è anche uno che se la tira come se la tira e lo mette proprio nelle opere che fa e si vede, quindi magari lo odi perché è un rompicazzo. Basta, niente. Basta. E chiudiamo perché mi avete stancato, l'episodio è troppo lungo. dici la rubrica di oggi. Non c'è. Ok. Allora niente. Dai, la prima monografia, no? Cosa? È la prima monografia? No. Come no? No, pensavo fosse la prima monografia, perdonatemi. Di cosa? Di no. Podcast? Cioè, ma non hai sentito tutti gli altri episodi prima di venire sul podcast? No, che schifo. No, mi dispiace. Non è la prima, i nostri ascoltatori lo sanno bene, perché c'è stata una bellissimo robo su Nicolas Cage. E uno su Zack Snyder. E uno con un ospite super esperto di Zack Snyder. È vero. Sua madre. E basta. E dai, allora ci diamo appuntamento la settimana prossima con una roba, una puntata stavolta che ho voluto io. E, anche perché poi mi hanno cominciato a rompere il cazzo perché non la fai, falla, e allora la dobbiamo fare. E niente, vi ringrazio chi ha parlato sta puntata, perché se no non l'avrei fatta, e basta, ci vediamo settimana prossima. Ciao. Ciao.